Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa iniziativa di oggi a cura del laboratorio Lapsus. Io mi chiamo Martino e ho il compito di introdurvi a questo incontro che noi abbiamo organizzato con estremo piacere perché vede la partecipazione di un ospite molto molto particolare e dal grande impatto anche emotivo anche per noi. Questa per noi è la prima iniziativa dell'anno. Il laboratorio Lapsus ritorna al suo quinto anno di esperienza di lavoro qui all'Università Statale, esperienza di lavoro che ci ha visto promuovere sempre laboratori, iniziative, incontri volti a rinnovare sempre di più quello che è l'insegnamento e la produzione, lo studio della storia contemporanea, e incontrare Paco Taibo II in queste aule crediamo che possa essere davvero un momento di grande valore. Io rubo poco tempo perché la cosa più importante davvero è dialogare con Paco. Vi segnalo che noi abbiamo un banchetto di materiali, di libri col quale potete sostenerci e darci una mano per permetterci di continuare a organizzare e a promuovere le nostre iniziative. Vi segnalo che sui vostri banchi avete il programma del laboratorio di quest'anno, del primo semestre. Noi cerchiamo di variare il più possibile i nostri temi per tutto quello che riguarda la storia contemporanea, ma quest'anno abbiamo ritenuto abbastanza inevitabile concentrare il nostro studio, il nostro laboratorio sul tema della crisi, la crisi in corso, e nel calendario che trovate potete trovare tutti gli incontri alla quale la partecipazione è libera, quindi non è obbligatorio essere iscritti per intervenire, per partecipare. Prima di passare al libro, però, vorremmo dedicare pochi secondi ad una comunicazione. In questi giorni, per l'ennesima volta, l'università è stata chiusa, la libreria QEM, alcuni di voi forse lo sanno, ed è un'esperienza importante che si è tenuta negli ultimi mesi l'università, che ha riaperto agli studenti uno spazio che altrimenti rimarrebbe chiuso, e tutti quanti sappiamo quanto l'università abbia bisogno di spazi, di luoghi di aggregazione, di luoghi di cultura. Ecco, arrivare una mattina e trovare una libreria dedicata agli studenti chiusa è una cosa che fa male a tutti, fa male all'università, fa male agli studenti e fa male davvero alla collettività. Per cui vorremmo, anche alla luce del valore dell'incontro di oggi, esprimere la nostra solidarietà ai ragazzi che si sono visti chiudere questo spazio per l'ennesima volta. Basta, la faccio breve perché davvero l'incontro di oggi è molto interessante e tratta appunto di Alamo. Per la storia non fidatevi di Hollywood, l'ultimo libro di Paco Taibo II, un libro che per noi ha un valore sotto diversi punti di vista per quanto riguarda il nostro lavoro. In primo luogo è un libro che si innesta in maniera del rapporto fra uso e abuso pubblico della storia. Nei nostri lavori in questi anni abbiamo sempre sottolineato che la storia contemporanea non è mai neutrale, la storia non è mai una materia avulsa dalla realtà, anzi molto spesso, quasi sempre, la storia è il suo uso politico. Questo non è sbagliato, è una questione di onestà, è una questione di onestà intellettuale. Molto spesso gli storici si camuffano, si trincerano dietro una presunta, come dire, oggettività che non esiste. Paco Taibo II in questo libro smaschera quello che è un immaginario costruito in decenni di produzione culturale, soprattutto americana, che ha costruito intorno alla battaglia di Alamo il mito fondativo degli Stati Uniti d'America e anche della loro politica culturale ed imperiale, come viene appunto sottolineato nel libro. Ecco quindi che questo libro è un libro importantissimo perché ci serve per smascherare quello che appunto è un linguaggio costruito intorno alla battaglia di Alamo, per invece riscoprirne i risvolti reali, l'esperienza reale di chi quella battaglia l'ha vissuta all'epoca, facendo rivivere i personaggi che sono stati protagonisti di quel tempo. Il secondo motivo per cui per noi questo libro è molto interessante è che ci permette di approfondire il tema degli strumenti di comunicazione storica. Paco Taibo scrive un libro, ma ricostruisce, fa un grande lavoro di ricerca anche su quelli che sono stati i film che hanno permesso di costruire questo mito, in particolare il film di John Wayne, con il protagonista John Wayne, dedicato alla battaglia di Alamo, che è uno dei film più significativi appunto nella costruzione dell'immaginario intorno a questo tema. Ed è per noi molto interessante perché gli strumenti di comunicazione storica sono quelli che poi producono gli immaginari delle persone che ne usufruiscono, e quindi crediamo che sia responsabilità degli storici e anche di noi studenti che si spera andremo a fare questo lavoro, cercare di maneggiare al meglio questi strumenti e anche interpretarli se e quando costruiscono miti non sbagliati, però facendo operazioni culturali e politiche di un certo tipo. Altro motivo è che questo libro è un esempio, come sempre nei libri di Paco Taibo II, contemporaneamente di rigore storico, perché Paco lavora, fa un grandissimo lavoro di ricerca delle fonti. Se avete modo di leggere il libro, questa ricerca è durata 6 anni di ricerca d'archivio, non è un saggio buttato fuori di corsa, è il frutto di un grande lavoro di archivio, quindi è il frutto appunto di un lavoro rigoroso a livello metodologico, ma anche contemporaneamente di un lavoro efficace di comunicazione storica. Uno dei grandi meriti, crediamo, di chi conosce la letteratura di Paco Taibo II, è quello di avere una prosa molto molto piacevole da leggere, che appassiona, che non resta prigioniera di schematismi accademici. E questo è sicuramente un grande merito dell'autore, perché molto spesso ci troviamo a usufruire di prodotti culturali che magari hanno un grande rigore metodologico, ma sono anche dei mattoni incredibili, diciamoci la verità. E quindi ha il merito di riavvicinare un po' l'utente medio, sia gli studenti ma anche le persone che comunemente magari vogliono leggere un libro e sono appassionati di storia, al fatto a leggere appunto di questi argomenti in maniera rigorosa ma contemporaneamente piacevole. E questo è un aspetto fondamentale che in università non si cura mai. Ultimo punto che vorremmo affrontare per sottolineare perché questo libro è molto significativo per noi, invitarvi quindi alla lettura di quest'ultimo, è che Paco per l'ennesima volta nella sua produzione riscopre tutta una serie di personaggi che altrimenti sarebbero rimasti nell'ombra, sarebbero stati dimenticati. Mas de spazio. Tre velocità, compadre. Il libro racconta, ripeto, è un filo rosso che tutta la sua produzione, di personaggi tra virgolette minori, che poi non sono tali, ma che spesso appunto vengono dimenticati. Parla di contadini espropriati, parla di avvantaggio di proprietari latifondisti, parla di comunità di indigeni fatte scomparire, parla di distruggere il mito della storia come percorso lineare verso il progresso, quando invece si scopre che l'indipendenza del Texas ha portato al ritorno dello schiavismo, della schiavitù dei neri e così via. Quindi, come dire, per l'ennesima volta Paco dà un contributo, a nostro modo di vedere, significativo a quella che noi chiamiamo, in termini un po' tecnici, ma insomma è quello, la storiografia repubblicana, quella storiografia che è critica, che appunto va a riscoprire quelle storie degli ultimi, di personaggi che altrimenti rimarrebbero vittima della grande storia che vede appunto il potere emergere costantemente, opposta a quella storiografia del principe che invece abbiamo imparato a vedere, appunto cerca sempre di assolvere quelle che sono le scelte imperiali piuttosto che dominanti di certi paesi, di certe politiche, di certi governi. Ecco quindi che per punti molto rapidi, perché non voglio togliere spazio ai relatori che sono anche più autorevoli di me, ecco perché però questo libro per noi è importante, significativo, e ringraziamo la casa editrice Tropea che ci ha permesso oggi di ospitare Paco e tenere questa iniziativa. Io mi taccio e lascio la parola al professor Massimo De Giuseppe, che insegna la storia contemporanea al Giulio di Milano e che è anche un grande esperto, se andate a scorrervi il suo curriculum, la sua produzione su internet, lo potete verificare, di America Latina. Ha scritto molto di storia del Messico e quindi è la persona adatta per introdurci ulteriormente ai temi del libro. Grazie mille.